che facesse uscire le impressioni. E le note dolorose che suonano in questa terra. Un uomo potente convince le persone, inondandole di televisione, televisione, spacciando sogni falsi, uccidendo la coscienza. Sogni falsi di cui non puoi più far senza, e rende amaro il mio caffè. Cui non avresti mai pensato.